Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Leonardo Becchetti. Buonasera. Leonardo Becchetti insegna economia politica presso l'Università Tor Vergata di Roma, direttore scientifico della Fondazione Achille Grandi, dal 2013 presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Next, Nuova Economia per Tutti, e presiede anche il Comitato Etico di Banca, di Etica SGR, primo fondo di investimento etico italiano. Editorialista di Avvenire, ha scritto un libro, perché di libri parliamo in questo programma, che si intitola Capire l'economia in 7 passi, persone, mercati e benessere. Quindi non è un decalogo, Becchetti, è 7 passi. Perché 7 passi? Ma perché secondo me è possibile in modo semplice cercare di far capire l'economia, ma soprattutto è essenziale che questo accada. Io inizio dicendo una cosa, che la fisica, se la gente non conosce la fisica funziona lo stesso, ma se i cittadini non conoscono l'economia funziona molto peggio di come potrebbe funzionare. Quindi è un nostro dovere uscire, diciamo, dalla torre d'avorio, la cosiddetta torre d'avorio degli economisti, e cercare di far capire il più possibile cos'è l'economia, come funziona, per proteggerci magari con più educazione finanziaria dalle conseguenze delle crisi bancarie e finanziarie. Certo. E per imparare a usare quella cittadinanza attiva di cui parlo moltissimo, quel voto col portafoglio, che è fondamentale per riequilibrare il sistema socio-economico nei tempi della globalizzazione. Ecco, ne parleremo, perché questo libro ha la pretesa, diciamo, di non solo di far capire l'economia, ma anche di far cambiare l'economia. In un certo senso, si diceva una volta, se noi non ci occupiamo di economia, l'economia comunque si occupa di te, e quindi interessarsi di economia vuol dire cercare in qualche modo anche di indirizzare l'economia verso dei profili, verso delle prospettive che siano un po' diverse dalle attuali. Per quello si parla in questo libro di persone, mercati e benessere. Ma perché benessere e non bene comune, Becchetti? Ma il benessere poi in realtà si va anche sul tema del bene comune. La cosa fondamentale intanto è superare il riduzionismo del PIL, nel senso che non dobbiamo buttare a mare il PIL, ma dobbiamo anche capire che la felicità, la soddisfazione di vita, il bene comune di un territorio e di una cittadinanza non dipendono unicamente dalla crescita del PIL. Sappiamo dai tempi di Kennedy che nel PIL ci sono molte cose che purtroppo producono infelicità e tante cose importanti per la nostra vita ne sono escluse, e quindi bisogna passare a un concetto di bene comune che includa la ricchezza, diciamo, come stock dei beni economici, culturali, filosofici, spirituali di cui una comunità può godere su un territorio. Su questo ci sono dei passi avanti importanti che si stanno facendo, tutta la strada italiana del BES, iniziata all'Istat, a cui anch'io ho partecipato, e fino ad arrivare oggi alla calendarizzazione di una proposta di legge per cui i prossimi documenti di economia e finanza saranno valutati non solo come impatto sulla crescita, ma come impatto sul benessere del territorio e del BES. È fondamentale perché, per esempio, quando noi studiamo tagli alla sanità, oggi è importantissimo andare a vedere se questi tagli possono ridurre l'aspettativa media di vita del paese. Sappiamo che l'ultimo anno ci sono stati 5 mesi in meno, per la prima volta l'aspettativa di media è andata indietro, e se andiamo un pochino più ad approfondire le dinamiche di sanità e economia, sappiamo bene che oggi togliere degli euro alla sanità, non quelli che vanno magari a strapagare delle siringhe, ma quelli che vanno a finanziare l'acquisto di farmaci essenziali per la sopravvivenza, può ridurre l'aspettativa di vita. Siamo in una fase in cui ci sono degli avanzamenti eccezionali dal punto di vista della salute, penso ai farmaci per la cura dell'epatite o quelli per immunitari per la cura dei tumori. Questi farmaci costano moltissimo perché sono sotto protezione brevettuale, e oggi sappiamo che il sistema sanitario li può dare solamente alle persone che sono ammalate in modo molto grave, ma questo è un paradosso, perché dovrebbero essere invece dati a persone anche che sono in una fase iniziale per evitare che poi si aggravino. Certo. Ecco, in questa prospettiva, proprio valutando i costi e benefici della realtà del sistema economico, un ruolo importante è quello della finanza. In questo libro un capitolo è dedicato alla finanza, una finanza che è messa sotto accusa molto spesso, che lei mette sotto accusa anche per l'incapacità anche di offrire una risposta. È possibile affrontare anche il tema della finanza in questa prospettiva? Ma assolutamente, io credo che la questione fondamentale è che la finanza ha delle potenzialità straordinarie che usa in misura assolutamente piccola per risolvere quelli che sono i problemi della collettività, e questo che a me fa impressione, nel senso che oggi, se andiamo a guardare tra capitali pazienti, che sono quelli fondamentali per stimolare gli investimenti, la ripresa e capitali supersonici, che sono quelli che semplicemente si accontentano di speculare comprando 10, 100 volte, 1000 volte in un giorno, quindi le frequency trading, noi abbiamo soprattutto capitali supersonici e pochi capitali pazienti. E poi c'è tutto un problema anche di riforma del sistema finanziario e bancario che potrebbe essere posto maggiormente al servizio della persona. Qui possiamo andare anche sull'attualità del nostro paese, dove abbiamo un sistema prevalentemente bancocentrico, e questo è un limite, cioè vuol dire che le aziende devono soprattutto andare in banca se vogliono finanza esterna per i loro investimenti, e un sistema sbilanciato sulle piccole e medie imprese, anche questo è un limite, dove però abbiamo puntato su un modello di banca che è una banca soprattutto che deve creare valore per l'azionista, molto grande, che massimizza il profitto, e quindi è una banca che ha assolutamente nessun interesse a prestare alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane. E quindi vediamo anche i dati dove c'è la ripresa oggi dei prestiti, soprattutto però al segmento delle medio grandi imprese, che è quello più redditizio, mentre abbiamo ancora il segno meno per le piccole e medie imprese e per le artigiane. Ecco, queste sono le contraddizioni che dovremo risolvere, e abbiamo gli strumenti per risolverle. Esistono degli esempi molto promettenti di banche etiche, esiste un sistema cooperativo, quella parte che funziona bene, che hanno come mission specifica quella della finanziare il territorio, aiutare l'accesso al credito di chi non ha garanzie. Tutto questo può funzionare molto bene se solo gli diamo anche noi più forza, e se anche le istituzioni, i regolatori hanno un'attenzione maggiore verso questo tipo di banca e verso la biodiversità. Anche in questa prospettiva si può parlare di quello che appunto dicevamo all'inizio, il voto col portafoglio. Può spiegarlo meglio cosa significa il voto col portafoglio? Ma assolutamente, voto col portafoglio vuol dire che noi abbiamo un potere enorme nelle nostre tasche, che è quello di rinforzare la democrazia, che col voto politico non funziona, non basta il voto politico, lo vediamo che c'è stata una diseguaglianza che è aumentata moltissimo, no? I 61 uomini più ricchi del mondo sono ricchi come 3 miliardi e 600 milioni più poveri, e questo non si spiega in democrazia, non si spiega come questi 61 possano vincere le elezioni. Abbiamo bisogno di un voto economico, cioè possiamo ogni volta che noi compriamo un prodotto o decidiamo come risparmiare i nostri soldi, dobbiamo sapere che stiamo votando per un'azienda, e possiamo farlo in positivo. Noi insistiamo sulla premialità del voto col portafoglio, cioè possiamo scegliere quelle aziende che oggi sono all'avanguardia nel creare valore economico in maniera socialmente e ambientalmente sostenibile, in modo tale da rendere sempre di più la sostenibilità una risorsa competitiva per le aziende. Lo è già, in questo secondo me il libro è molto innovativo, futurista, il mondo sta cambiando in maniera rapidissima. Illustrando un po' le caratteristiche del voto col portafoglio qualche tempo fa, mi sono accorto che parlavo di cose che sono accadute nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, qualche volta negli ultimi mesi. Basti pensare, faccio solo due esempi, c'è stata recentemente la cosiddetta Fair Trade Challenge, la sfida mondiale del Fair Trade, che non è stato altro che un'azione di coordinamento del voto col portafoglio a livello mondiale. In due giorni 1.700.000 persone si sono coordinate per acquistare una tazza di caffè ecosolidale, per dimostrare quindi il loro voto politico. Queste azioni cresceranno sempre di più. Un altro esempio, poco tempo fa, assemblea dell'Enel, dove si riconosce che il 15% del capitale dell'azienda è gestito ormai da fondi etici, cioè fondi di investimento che utilizzano la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale come leve fondamentali per le loro scelte di acquisto dei titoli. Questo vuol dire che oggi la BlackRock sono i fondi etici, saranno sempre più i fondi etici. Se pensiamo che esiste un accordo che si chiama Montreal Pledge, dove 10 trilioni di dollari di fondi, quindi una rete di fondi che rappresenta 10 trilioni di dollari di portafoglio di ricchezza, ha deciso di misurare l'impronta di carbonio del loro portafoglio titoli, quindi ha deciso di vedere quanto inquina il loro portafoglio titoli e di disinvestire progressivamente dalle aziende più inquinanti. Questo è l'esempio secondo me più importante e più forte di voto col portafoglio cui oggi stiamo assistendo, e che sta spostando in maniera molto significativa gli equilibri del mercato verso il bene comune. Assistiamo sempre più a notizie di aziende nel settore dell'energia che dichiarano di voler orientare i propri investimenti e le proprie scelte di policy verso il settore delle energie rinnovabili e anche il merito del voto col portafoglio. Ecco, in questa prospettiva può essere molto utile anche una maggiore conoscenza della realtà con i nuovi strumenti di comunicazione, con i nuovi strumenti informatici, ma vanno usati anche questi all'interno di un mercato che funzioni, di un mercato che sia per dare a ciascuno le proprie potenzialità. Concludendo, Becchetti, la prospettiva è quella di un'economia che possa sempre più avvicinarsi alla persona, che sia un po' sempre un po' meno di numeri e un po' più di qualità, che sono beni non solo materiali ma anche beni sociali, beni relazionali. E questa è la prospettiva con cui dobbiamo leggere questo libro, Capire l'economia in 7 passi, Leonardo Becchetti. È assolutamente quello a cui noi dobbiamo puntare anche come Italia, la qualità, il nostro traguardo. E per far questo, come appunto si accennava, è importante innanzitutto il nostro lavoro sui social, quello che io chiamo la wiki economia, per costruire per questa consapevolezza, questa capacità di coordinamento dei cittadini. È importante poi avere delle buone basi informative. Fondamentale da questo punto di vista le decisioni di molti paesi, l'Europa al prossimo anno, di rendere obbligatorio il bilancio integrato, cioè bilancio economico e bilancio con indicatori sociali e ambientali per tutte le aziende al di sopra dei 500 addetti. Il futuro quindi sta arrivando molto rapidamente, e io penso che se lavoreremo bene su tutti questi fronti e soprattutto se i cittadini aumenteranno in conoscenza e consapevolezza, ci porterà veramente verso un sistema economico in grado di tutelare la sostenibilità sociale e ambientale e di promuovere il bene comune. Quindi possiamo concludere anche con le ultime parole del libro: la felicità anche nostra è essere parte della soluzione e non del problema, sentirci responsabili in questa società che ha tante cose da offrire, ovviamente ha tanti problemi, ma conoscere i problemi è già fare un passo avanti per risolverli. Grazie Leonardo Becchetti. Grazie a voi. Ricordo, autore del libro Capire l'economia in 7 passi, persone, mercati e benessere, edito da Minimum Fax, sono 132 pagine per 13 euro. Grazie anche a Luca Cremonese in redazione e Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.